Coffee Break Italian, Season 2, Episode 36. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Mark. Ciao a tutti, io sono Francesca. We are back with another episode of Coffee Break Italian. Francesca, come stai? Bene, Mark, grazie. Un'altra bella giornata d'autunno. Esatto, Scozia. Sì, un po' di vento oggi comunque. Sì, un po' di vento, un po' di pioggerellina, ma è per questo che amiamo la Scozia. Ok, va bene. Forse. Forse. So we are back with another episode. This is episode 36 in our season of 40 episodes. But we are also dealing with our soap opera, and this is the sixth episode of our soap opera. So we're going to find out what happens in the development of the story between Riccardo and Maria in today's episode. As usual, we'll talk a little bit about last episode first, and then we'll move on to listening to this episode, and we'll go through everything in detail with you after that. Va bene? Okay, cominciamo. Cominciamo. Allora, come hai detto tu, Mark, siamo già all'episodio 36. Sì, 36. E mancano solo 4 episodi alla fine. Incredibile, no? Sì, sì, il tempo vola. Ma Mark, normally I summarize the previous episode. Mm-hmm. Questa volta vuoi farlo tu? Oh, ok, grazie. Oh, you just used the word mancare. Mancano sì. Solo 4 episodi, hai sì. Detto. If I remember correctly, that's exactly how the episode 35 or episode 5 of the soap opera finished, when Maria hugged Riccardo and he couldn't breathe for a moment. Ah sì, è vero, che buona memoria. Mi pare che abbiamo detto a Riccardo è mancato il respiro per un momento. I can't remember if this was the exact sentence, but something like that. Something like that. È mancato penso di sì. Il respiro. Sì, è mancato il respiro. So the breath was missing from him for a moment. Allora, nell'episodio 35 abbiamo visto Maria e Riccardo alla stazione di Trento. Sì. Vogliono andare a Vipiteno, mm-hmm. un piccolo paese. Sì, vicino all'Austria. Sì, ma c'è un problema. Perdono il treno. Sì, sì. Così cambiano programma e decidono di andare al Lago di Garda, dove passano una giornata sì. Bellissima. Riccardo si comporta bene questa sì, volta. Sì, finalmente. Alla fine, quando ritornano a casa, Maria abbraccia Riccardo, che, come abbiamo appena detto, non può respirare per qualche secondo. Sì, gli manca il respiro. Perfetto, Mark. Allora non vedo l'ora di scoprire cosa succede oggi. Secondo me sarà un episodio interessante. Mi manca il respiro. Ma dai. Oh, this is getting cheesier than ever. Let's have a listen to the episode now. Giorgio, vieni qui. Guarda. Vedi anche tu Riccardo e mia madre? Incredibile. Sembrano due piccioncini. Non smettono di guardarsi negli occhi. Ma questo cappuccino quanto dura? Il cappuccino più lungo della storia. Ma che cosa succede? Shh, parla piano, se no ci sentono. My mom and your dad are sitting at the cafe out there, and they've only got eyes for each other. Non ci posso credere. Incredibile, vero? I tre ragazzi hanno pensato a tutti i modi possibili per avvicinare Riccardo e Maria. E invece era così facile, bastava un cappuccino. Dopo aver finito il cappuccino, i due escono dal campeggio per andare di nuovo alla ricerca di una casa in montagna per Riccardo. Maria è sorridente e Riccardo cammina a un metro da terra. Non si accorge nemmeno della presenza di Mia. E questo è veramente molto, ma molto strano. Allora, che ne dici? È una casa bellissima, la casa dei miei sogni. Apri la finestra. Uff, che vista mozzafiato! E poi, guarda. Che cosa? C'è anche il caminetto. Mi immagino già le sere d'inverno, il caminetto acceso, un buon libro e la musica mentre è fuori nevica. Manda qualche foto a Mia. Guarda, ha già risposto. Papà, it looks bellissima. Go for it. Allora? La compro. Ragazzi, ho una notizia. Mio padre ha comprato la casa in montagna. Ah, che bello! Dobbiamo festeggiare. Sì, dai, andiamo a prendere uno spritz per brindare alla casa nuova. Cin cin. Cheers. Salute. Comunque, ragazzi, sembra che mia mamma e Riccardo vadano molto d'accordo, vero? My dad seems really happy. I've never seen him like this. La loro storia deve assolutamente continuare e noi dobbiamo dare una mano al destino. And this way I can get a bit of peace and quiet as you'll be too busy to bother me. Ah, la libertà. Basta sognare ad occhi aperti, ragazze. Torniamo al lavoro. Manca poco al 10 agosto e sapete che arrivano molti turisti per la notte di San Lorenzo. What's that? It's the night of le stelle cadenti. I think it's shooting stars in English. Apparently, if you make a wish when you see one of them, your wish will come true. Mia non conosceva questa tradizione italiana, ma ora che sa che cos'è, non vuole perdere un'occasione così speciale. Forse Maria è la donna giusta per suo padre. E forse Riccardo è finalmente pronto a innamorarsi di nuovo. Ne parla subito con Anna e Giorgio e insieme iniziano a fare i loro soliti mille progetti. Devono sbrigarsi però, il 10 agosto è alle porte. Okay, so our story has moved on a little. We are in a romantic evening, la notte di San Lorenzo. Sì. With the stelle cadenti. Che carino tutto. E poi sento quel profumo di estate, sai, la notte di San Lorenzo, le stelle cadenti. Oh. Vabbè, andiamo con ordine, Mark. Sì, giusto. Ascoltiamo di nuovo la prima parte. Ok. Giorgio, vieni qui. Guarda. Vedi anche tu Riccardo e mia madre? Incredibile! Sembrano due piccioncini! Non smettono di guardarsi negli occhi. Ma questo cappuccino quanto dura? Il cappuccino più lungo della storia. Ma che cosa succede? Shh! Parla piano, se no ci sentono. My mom and your dad are sitting at the cafe out there, and they've only got eyes for each other. Non ci posso credere. Allora, questa prima parte inizia in un modo molto interessante. Abbiamo visto che Maria e Riccardo stanno prendendo un cappuccino insieme. Un coffee break? Sì, forse ascoltano Coffee Break forse, German perché Bipiteno è vicino all'Austria. Forse. E mentre prendono il cappuccino non smettono di guardarsi negli occhi. Oh, that's a lovely verb, smettere. Smettere means to stop. Sì, to stop, to quit, to interrupt. Ok. Sì. E Mark, hai capito come Anna e Giorgio descrivono Maria e Riccardo? Ho capito la parola piccioncini. Bravo, sì. Ma cosa significa? Ah, non hai capito il significato. No, something small, there's an ino at the sì, end. Sì, there is an ino. So it comes from the word piccione. Which is like a pigeon. Pigeon, sì. Uh-huh. Could also be a dove, maybe it's nicer. Ah, right, ok. But it's a pigeon. Going. E in italiano usiamo piccioncino, so little pigeon, mm-hmm. Per descrivere persone molto innamorate, sempre vicine. So we're talking here about lovebirds. Ah sì, lovebirds, che carina questa parola. Lovebirds, sì. Allora, questi due piccioncini cosa fanno? Allora, bevono il cappuccino più lungo della storia. They are drinking the longest cappuccino in history. Sì, sì. A nice superlative. Very nice. Il più lungo della storia. And Mia hadn't realized that this was going on and she's talking quite loudly. But Giorgio gave her some sort of order. Giorgio says, parla piano, se no ci sentono. Sì. So speak quietly, otherwise they can hear us. We saw mm-hmm. "Se no" in the last episode. There is a lot going on in this sentence. Aha, I love this sentence. A lot of grammar there. We've got an imperative, parla, mm-hmm. and that's the informal imperative. Si. There is an adverb, piano, mm-hmm. and it's an adverb, an interesting adverb, because very often we think of adverbs finishing in mente, but this one doesn't. No, you can't say pianamente. Nah, no, it's weird. So piano, and then there's another adverb, the se no, otherwise. And then we've got a lovely direct object pronoun in there, mm-hmm. chi. We're not going into too much detail here with the chi. It just means us. Si. So speak slowly, or speak quietly rather. Piano can mean slowly, can't it? Yes. So speak quietly, otherwise they'll hear us, uh-huh. or they hear us in the present tense. Parla piano, se no ci sentono. We'll have more time to deal with these direct object pronouns in season 3. At the moment, let's focus on Mia's reaction to the scene. Sì, there is another ci in Mia's reaction. She says, non ci posso credere. I can't believe it. Mm, bravo. That ci is different there, however. Sì, it's nothing to do with us. So it's the same spelling, mm-hmm. same pronunciation. But this is what we discussed, well, a few episodes ago, when we have a verb followed by a, mm-hmm. come credere a qualcosa mm-hmm. o a qualcuno, we can replace a plus whatever follows with ci. Yeah, and the same would work if we had a verb, for example, like andare. Vado al mercato, ci vado. I'm going there. The ci is the there. But the difference is when we've got one of these verbs that uses a, but we won't really translate it like that in English. We still need the ci. So non ci posso credere, credere a qualcosa, non ci posso credere, I don't believe to it. Aha, sì, like sì, that. Sì. Ok, andiamo avanti con la narratrice. Sì. Incredibile, è vero? I tre ragazzi hanno pensato a tutti i modi possibili per avvicinare Riccardo e Maria. E invece era così facile, bastava un cappuccino. Dopo aver finito il cappuccino, i due escono dal campeggio per andare di nuovo alla ricerca di una casa in montagna per Riccardo. Maria è sorridente e Riccardo cammina a un metro da terra. Non si accorge nemmeno della presenza di Mia. E questo è veramente molto, ma molto strano. Okay. What's basically happening here is that it seems to have been fairly easy to bring Maria and Riccardo together after all, despite their early beginnings. Sì, infatti, bastava un cappuccino. Bastare, to be enough, to suffice. Mm-hmm. And it's also where basta comes from. Sì, so, sì, you know, sì. That's enough. A cappuccino was enough to bring Maria and Riccardo together. Sì, la narratrice in questa parte ha descritto un bel quadretto, una bella scenetta. Ah, I love it. Un bel quadretto. Un quadro is like a picture, a scene. So, un bel quadretto, a charming little scene. Sì. Proprio così. Maria è sorridente. Sì. Maria è smiley. Riccardo cammina, I love this, a un metro da terra. He's walking literally a meter off the ground. Sì. Meaning, of course, he's very happy. Esatto. And there is also one thing that proves Riccardo's happiness. That's right. He doesn't even notice Mia. He doesn't even notice Mia's presence. What does he say? Or what does the narrator say? Non si accorge nemmeno della presenza di Mia. Incredibile. Sì, è davvero innamorato, vero? So Maria and Riccardo are off to view a holiday home for Riccardo up in the mountains. Let's see how things develop from there. Allora, che ne dici? È una casa bellissima, la casa dei miei sogni. Apri la finestra. Uff, che vista, mozzafiato! E poi, guarda. Che cosa? C'è anche il caminetto. Mi immagino già le sere d'inverno, il caminetto acceso, un buon libro e la musica mentre è fuori nevica. Manda qualche foto a Mia. Guarda, ha già risposto. Papà, it looks bellissima. Go for it. Allora? La compro. Oh, questa parte mi piace tantissimo, perché ci sono un sacco di punti grammaticali che abbiamo già discusso. Ad esempio, ci sono molti verbi all'imperativo, come apri la finestra. Open the window. O guarda. Look. Manda qualche foto. Send some photos. And that's of course a few photos of what the house looks like, very much a dream house for Riccardo. Sì, infatti lui dice la casa dei miei sogni. The house of my dreams. And did you get how he describes the view he can get from the house of his dreams? Conosco questo aggettivo, mozzafiato. Bravissimo, it's breathtaking, it takes the breath away. Sì, and Mia also seems to be impressed and she encourages her dad to buy the house. What does Riccardo say at the end to confirm he will go for it? He says a very simple sentence, although it's not quite so simple when we think about the grammar in there. Mm. He says, la compro. Now, the compro is obviously I buy, sí. And the la is referring not to a definite article. It's not the feminine definite article, but in this case, it's the direct object pronoun used to replace the feminine singular object, in this case, la casa. Bravissimo. I think we discussed this in the previous episode when Riccardo was looking at Maria, la guarda, la ascolta, or la ascolta, la guarda, I can't remember. In that case, he was talking about a person, Maria, la guardo, la ascolta. But here we're talking about a thing, but it's a feminine thing. Exactly. And that's why we use that same direct object pronoun, la compro, I'll buy it, or literally, I buy it, present tense. Sí. Even though in English we would tend to say, I'll buy it, I will buy it, if you've decided to buy a house. Francesca, a wee review on these direct object pronouns, perhaps? Okay. Well, not a review, because we've never done them. But... An overview, then. Okay. Okay. So let's take a masculine singular noun, for example, il panino. Right. I've decided that I'm going to buy the panino, so I'm going to say, lo compro. Bravissimo, lo compro. And what if you want to buy a guitar, la chitarra? Oh, a guitar, I would say, la compro. Ottimo. Yesterday I was on the train and a little girl had come back from holiday. She got on with her suitcase and for the entire train journey, she was not playing her guitar that she had bought on holiday, but she was playing the castanets that she had bought on holiday for the entire train journey. Anyway, so that's la compro. I pantaloni, the trousers. Interesting here, because now we're into the plural of a masculine object, I pantaloni. Li compro. Ottimo. E l'ultimo è le sedie. The seats, if you're buying some seats, perhaps the seats that they're missing on for the campsite. Ah, sì, esatto. Le compro. Ottimo. So our direct object pronouns, lo for masculine singular, la for feminine singular, li for masculine plural, and le for feminine plural. Perfetto. We don't have to worry about li and all these other ones. No, like that, no, because no. Those are definite articles. Sì. Four direct object pronouns, the wonderful thing about them in Italian. Okay, in just a moment, we're going to hear what Mia and her friends think about this great news that they found the house of their dreams, but we'll do that after our break. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. We're listening to episode 6 of our soap opera, and in this episode we've just heard that Riccardo and Maria have found the house of Riccardo's dreams in the mountains behind Trento. Let's find out what Mia, Anna and Giorgio think about this. Ragazzi, ho una notizia. Mio padre ha comprato la casa in montagna. Ah, che bello! Dobbiamo festeggiare! Sì, dai, andiamo a prendere uno spritz per brindare alla casa nuova. Cin cin! Cheers! Salute! Comunque, ragazzi, sembra che mia mamma e Riccardo vadano molto d'accordo, vero? My dad seems really happy. I've never seen him like this. La loro storia deve assolutamente continuare. E noi dobbiamo dare una mano al destino. And this way I can get a bit of peace and quiet, as you'll be too busy to bother me. Ah, la libertà. Basta sognare ad occhi aperti, ragazze. Torniamo al lavoro. Manca poco al 10 agosto e sapete che arrivano molti turisti per la notte di San Lorenzo. What's that? It's the night of... le stelle cadenti? I think it's shooting stars in English. Apparently, if you make a wish when you see one of them, your wish will come true. Your wish will come true. I love it. Okay, so it looks like it's time for some celebrations. Sì, come dice Giorgio, che bello, dobbiamo festeggiare. Something that Italians say quite readily, yeah? Ci piace festeggiare in Italia. So we have to celebrate. How nice, we have to celebrate. And obviously with a spritz, spritz, perfect for brindare, to toast. Sì, che bello. And after toasting, Anna, let's say, reflects on the situation. Mm-hmm, she says, sembra che mia mamma e Riccardo... vadano molto d'accordo, vero? And another nice subjunctive there. Yeah, again, this is just a little introduction to these. You'll come across subjunctives in real life. Sì. Don't worry too much about them. Here, it's triggered by sembra. It seems there's an element of uncertainty here. It seems that they go well together. That's why we say vadano and not vanno. Vanno, because it could be the opposite, so we don't know if they're really happy together. Exactly. Again, just to recognize that just now, don't worry about that. You don't need to learn how to conjugate all of that and when it all works. No. It's a nice phrase. Andare d'accordo, yeah, sì. To go in agreement. Literally, sì. It means to get on well. Sì, sì, sì. And at times it's also used with the preposition con. Ad mm-hmm. esempio, io vado d'accordo con Mark. Vero, certo, Mark? Certo, spero. Certo. So notice the use of vero both in the episode and in Francesca's question. Ah, it means, sì. It means true, but it's used in the same way we would use, isn't it? Or don't we? You know, you just say, vero, Mark, uh-huh. Isn't that right? Yeah, when you want the other person to confirm what you're saying. Exactly. Ma andiamo avanti. Okay, allora, we have seen so far that Mia and Anna are dreaming about a future together for Riccardo and Maria, but Giorgio is more realistic, vero? Giusto. Lui dice, basta sognare ad occhi aperti, which literally means enough dreaming with your eyes open, which translates into, of course, daydreaming. Sì, Giorgio è un vero lavoratore. E sottolinea anche che manca ormai poco al 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Yes, so manca poco, little remains to the 10th of August. So sì. There's only a few days to go, or a little short time remains before this notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Sì, che bello. The falling stars, when you see a shooting star, you can make a wish, which hopefully will come true. Sì, speriamo. Ok, ascoltiamo l'ultima parte. Va bene. Mia non conosceva questa tradizione italiana, ma ora che sa che cos'è, non vuole perdere un'occasione così speciale. Forse Maria è la donna giusta per suo padre, e forse Riccardo è finalmente pronto a innamorarsi di nuovo. Ne parla subito con Anna e Giorgio e insieme iniziano a fare i loro soliti 1000 progetti. Devono sbrigarsi però, il 10 agosto è alle porte. Il 10 agosto è alle porte. It's sì. At the doors, it's knocking on the door. This final part was fairly straightforward. Mia didn't know about the night of the shooting stars. But now that she understands what this involves, I think she believes that it's a good opportunity. Sì, lei non vuole perdere un'occasione così speciale. Ma perché, Mark? Perché, secondo Mia, forse Maria è la donna giusta per suo padre. She is the right woman for her dad. Mm-hmm. E forse Ricardo è finalmente pronto ad innamorarsi di nuovo. Perhaps Ricardo is finally ready to fall in love again. Oh, Anna mia e Giorgio, quindi stanno di nuovo escogitando qualcosa? Did you remember verb escogitare, Mark? I do indeed. Escogitare, certo, it means to concoct a plan. Although this time, the narrator says, insieme iniziano a fare i loro soliti mille progetti. Sì, perfetto. Più facile fare progetti, ma... Yeah. I like escogitare. Escogitare, bellissimo. E comunque, non hanno molto tempo, vero? No, devono sbrigarsi. They have to hurry up. Il 10 agosto è alle porte, as come abbiamo detto. As we've said. It's fast approaching, we could say. Sì, sì, e anche noi dobbiamo sbrigarci, vero Mark? Hai ragione, è tardissimo. I think we should leave it there for this episode. As usual, we'll be going through all of this in greater detail as we go through the whole episode and talk about every line, explaining the grammar, the vocabulary, and any expressions contained in this. And that forms our bonus audio episode for this episode. Lots of episodes in there. For the episode, you'll also be able to access the video version, which will allow you to see what we're seeing on the screen, and of course, our lesson notes. And all of that makes up our bonus version, the premium version of Coffee Break Italian Season 2, which, of course, you can find at Coffee Break Italian. Plus.com. And of course, don't forget that you can follow Coffee Break Italian on social media. We are at Learn Italian on Twitter, and search for Coffee Break Italian on Facebook for our regular cultural and language challenges. And keep up with all of us here at Coffee Break on Instagram, where we are at Coffee Break Languages. Excellent. Now, if you are listening to this on Spotify, then we are delighted that things are finally working as they should be on Spotify, because we can now have the entire back catalogue of Coffee Break Italian available to you on Spotify, along with our other Coffee Break shows too. So welcome to our new Spotify listeners. We're delighted that you're listening along. È tutto per oggi. Grazie mille e arrivederci. Alla prossima. Ciao. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017 Radiolingua Limited. Recording copyright 2017 Radiolingua Limited. All rights reserved.